che cosa devono fare le istituzioni? Una volta che il Comune di Milano dava anche agli immigrati le case popolari. Adesso il signor Salvini mi dice che in 30 metri quadri ci sono 20 persone, forse è giusto questo che sta dicendo, però se uno straniero che ha tutte le caratteristiche per diciamo avere una casa popolare non lo danno, dove va? Salvini, vorrei avere delle statistiche che dicono quanti stranieri hanno avuto dal 2000 fino adesso le case popolari. Questi stranieri che hanno il diritto di avere le case popolari? Lei dice Salvini, un attimo Asfa, più della metà, però lei Salvini... Più della metà delle case popolari assegnate a Milano e assegnate a extracomunitari, che secondo me è sbagliato, più della metà. Perché è sbagliato? Perché ci sono 15.000 italiani in lista d'attesa. Però le chiedo, lei anche, quindi loro avrebbero la precedenza? Beh, è chiaro, perché spesso e volentieri lavorano in nero, hanno 4-5 figli a testa, ti passano davanti. E che fanno? Cioè, corrompono i funzionari pubblici? No, stante la legge per l'assegnazione delle case popolari, che ha introdotto i 5 anni di residenza grazie a una battaglia della Lega che ci è costata accuse, denunce, razzisti, brutti, cattivi, ci vogliono 5 anni di residenza. Nonostante questo, siccome vengono premiate per le graduatorie delle case popolari l'ampiezza del nucleo familiare, e nella cultura di qualcuno c'è di fare 6, 7, 8 figli, buon per loro, che evidentemente sperano nel futuro, e il reddito familiare, e spesso e volentieri almeno uno dei due lavora in nero, è chiaro che tanti figli, pochi soldi, lo straniero ha più del 50% delle case popolari in tutta la Lombardia. Lei ha proposto, ma è vero, di vietare la vendita delle case agli stranieri per un anno? Ha detto che il mercato immobiliare in quelle zone è meno di zero, quindi non si vende niente, insomma. È la legge Kohler che esiste in Svizzera, se qualcuno vuole andare a curiosare su internet, su Google, digita legge Kohler. In Svizzera non si vendono case agli stranieri per difendere il suolo svizzero. Io vado, me la vedo. Cioè, lei vorrebbe questa legge, insomma, per quanto? Io sto dicendo che in Svizzera hanno adottato questo intervento per difendere il suolo, così. Vabbè, per dire, cioè, in Svizzera lo fanno perché lo vorrebbe anche lei in Italia, no? Per quanto mi riguarda, ad esempio, nel quartiere cinese di Paolo Sarpi, se si impedisse di comprare case e negozi a chi viene da fuori Italia, ci sarebbero meno problemi.